piedaré esta Roma che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. Fai, non mi rispondi, mi canti uno stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello. Andiamo dagli Roma, chi se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbasta uno scossone. Voglio cantare. Bene, questa è... l'avete penso riconosciuta un po' tutti e tutte, Proietti che canta Non gli dare retta a Roma dal film di Luigi Magni Tosca, dove accenna questa morte, finto suicidio di Cavaradossi, e chiama Roma così simbolicamente, metaforicamente a sollevarsi, a non farsi coglionà, che insomma per il dialetto, per chi non è di Roma, e non farsi prendere in giro, e la usiamo, la proponiamo come introduzione, come sigla quasi, insomma, se piace perlomeno, a questo discorso sul Salva Roma che stiamo così già abbiamo cominciato a trattare nei giorni scorsi da questi microfoni. E però vorremmo farlo quasi con una cadenza giornaliera, quasi farne un appuntamento fisso, soprattutto col contributo di chi è in ascolto, ascoltatrici e ascoltatori, perché insomma qui, a parte i proclami, a parte la costante accusa che viene rivolta alla città, che vuol dire tutto e niente, insomma, che Roma ladrona, tanti altri insulti che sono piovuti sempre 40 anni fa, Scalfari, insomma, questo tanto per citare una firma grande, scriveva sull'Espresso, no? un articolo che poi è rimasto famoso, capitale corrotta, nazione infetta, e additando Roma il centro del male, della corruzione, eccetera eccetera, e su questo insomma i romani e le romane hanno sempre avuto, come si dice, spalle larghe nel sopportare tutto questo, è un po' anche lo spirito di questa città, almeno lo era, oggi è più difficile già capirlo, ma il discorso viceversa che si va addensando non è tanto quello di una città nel suo complesso che è piena di deficienze, di mancanze, di buchi neri, non solo economici ma soprattutto nel suo funzionamento generale, è proprio quello di attaccare la situazione presente per portarla non si capisce bene verso che cosa, ovvero si capisce se si bada a quello che è questo famoso decreto Salva Roma, cosiddetto, che poi è un decreto più grande che riguarda tutti gli enti locali, non solo Roma, ma che ha un paragrafo, il 16, l'articolo 16, che riguarda proprio la città di Roma e dice e si chiama Disposizioni concernenti Roma Capitale, dove insomma vengono delineati dei passaggi molto stretti anche temporalmente. Ci sono 90 giorni di tempo affinché la Giunta Capitolina ponga mano al deficit di bilancio, anche prevedendo insomma dei tagli sostanziosi, risparmi e comunque tagli sostanziosi alla gestione del comune, delle società controllate, eccetera eccetera. Quindi si apre veramente un discorso grosso, difficile anche da penetrare, non da comprendere nelle sue finalità, ma da penetrare nei dettagli, perché poi insomma sono società grosse, è una città che non è facile gestire perché è la capitale della Repubblica, perché c'è la sede del potere politico, perché c'è il Papa, non bisogna mai dimenticarselo, anzi è quello che c'è stato da più tempo, insomma, no? Dal punto di vista dei poteri, se lo vogliamo dire. E quindi un sacco di problemi, insomma, che ne so, la domenica c'erano 100.000 persone a San Pietro, ogni volta che parla il Papa è un casino, insomma, nel senso del traffico, di tutte queste cose, ci sono decisamente dei problemi. Tutte queste cose vengono scaricate addosso alla cittadinanza in genere, ma poi in particolare sappiamo tutti e tutte che chi paga di più sono quelli che Roma la vivono, non la abitano, perché un conto è abitarci a Roma, fa anche piacere questa città, la storia, il suo modo di vivere, tante cose così, no? Abitarci è una cosa, viverci e soprattutto lavorarci è tutta un'altra cosa, insomma, i problemi li conosciamo tutti. E allora vorremmo un po' sollecitare anche senza partire da questi argomenti stringenti così, che sono legati ai numeri, poi ai bilanci, ai costi dei servizi, alle possibilità, alle compatibilità, tutte queste cose, ma sollecitare anche umori, sensazioni che si hanno verso questo discorso, cioè come la prendiamo un po' tutti questa faccenda, sono giuste le critiche, sono strumentali, cosa nascondono, come vediamo noi stessi sta città, insomma come la viviamo, se ci rendiamo conto di tutte queste mancanze di cui ci accusano, se ce ne sentiamo responsabili, dove stanno i responsabili, se ci deve essere a Roma la capitale, non lo so, insomma qualcuno potrebbe dire, ma è un privilegio o è una condanna essere la capitale di un paese, insomma, visto che poi comporta tutte queste cose, tutti questi disservizi, tutte queste lagnanze. E quindi io approfitterei proprio dalla compagna qui che è con me ai microfoni, intanto per sentire da lei, che non è nata a Roma, ci vive insomma penso già da qualche anno, e non tanto che effetto gli fa, ma insomma quale, su questi argomenti e su queste cose, qual è anche la sua percezione così istintiva, spicciola, insomma, no? Come la vede sta città, come l'ha vista, come l'ha imparata a conoscere, che cosa non gli piace, che ne so. Ma a me, insomma, in tutto questo dibattito sul Salva Roma, la prima cosa che, insomma, che ho sempre in mente quando leggo, insomma, quello che i giornali passano, i media in generale, è che appunto si parla di sprechi, tagli di servizi necessari, bisogno insomma di razionalizzazione, a volte si usano anche parole impegnative come questa, e a me la prima cosa che viene in mente è che questa città non ha i servizi sufficienti per la popolazione che ci vive e ci lavora, e quindi taglio sui servizi significa tagliare su qualcosa che invece andrebbe incrementato, ampliato. La cosa più evidente sono i trasporti, insomma la prima cosa che viene in mente è un servizio pubblico, certo non per responsabilità degli autisti che guidano gli autobus o le metropolitane, che non sono assolutamente sufficienti per la popolazione. È molto molto complesso andare a lavorare ogni mattina con i mezzi pubblici in questa città, perché non sono sufficienti né numericamente, negli ultimi anni è crollata anche, come dire, proprio la qualità ora ci sono gli autobus nuovi, ma insomma chi li prende, mezzi pubblici, sa quanti sono i guasti giornalieri che impediscono di arrivare al lavoro in tempo o di tornare a casa in orari decenti. Sappiamo che questo è dovuto a tante cose, anche a uno sviluppo urbanistico di questa città che rende molto complesso dare trasporti adeguati, ma non sono gli unici servizi che sono sottodimensionati in una grande capitale europea qual è Roma, insomma. Per cui a me fa molta impressione che si continui a confondere sui media, io credo strumentalmente, insomma non credo che ci sia incapacità da questo punto di vista, due piani che da una parte si parla degli sprechi, della corruzione, di quello che è stato mangiato in questi anni dalle amministrazioni che si sono succedute e si dice quindi bisogna tagliare, confondendo i due piani, no? Quelli dei servizi realmente prestati a cittadini e cittadine e quello di cattive amministrazioni. E mi pare insomma che questo sia un discorso costruito ad arte, peraltro molto molto simile a quello che si fa anche sul piano nazionale rispetto alla spending review, insomma. E infatti è questo, è proprio quello, cioè questo che dici tu, qualcuno potrebbe dire vabbè questo è un po' il male se non di tutte, di tante città italiane, per non dire proprio dell'Italia in senso, perché poi noi siamo bravissimi a complessivamente, no, a colpevolizzarci, a fare le critiche, farci le critiche che poi però non, come si vede, come si è visto, spesso non portano da nessuna parte. Però in particolare secondo te Roma c'ha qualcosa di più in peggio rispetto ad altre città oppure no, insomma la merita sto fatto di essere capitale di, tanto potrebbe pure essere da un'altra parte la capitale, no? Stava a Torino, poi in periodo è stata anche a Firenze poco tempo, no? Sì, non credo sia un gran merito insomma quello di essere capitale di questo paese e, nel senso, è certo che Roma ha una storia particolare anche insomma il fatto che tu ricordavi poco fa, cioè che il Papa è quello che qua c'è da più tempo, insomma c'era un Papa Re fino a ieri l'altro in questa città, non credo che sia un fatto che si possa dimenticare vedendo com'è adesso Roma, però questo fatto di centrare l'attenzione su Roma ladrona, su Roma sporca, su Roma che fa schifo, su Roma, a me sinceramente pare molto strumentale, ecco, perché poi Roma nei servizi secondo me è messa peggio di gran parte del resto d'Italia, ma è messa peggio proprio rispetto a quello di cui i cittadini possono usufruire, no? Cioè io non mi pare che i romani e le romane, insomma chi vive a Roma come dire si meriti di essere accusato di così aver sprecato milioni di euro e quindi ora ci dobbiamo scusare perché per tre volte è stato varato un decreto che deve tirar fuori la capitale dalle peste economiche, no? Cioè, mi sembra il problema siano altri, insomma non è per semplificare, ma la legge di stabilità che impone un tetto ai costi è la causa di tutto ciò. Infatti cominciamo a dire questo patto di stabilità, così sì, lo chiamo, no? Con gli sì, enti locali, tra governo e enti locali, che al solito ce lo chiede l'Europa, non ce lo chiede l'Europa, ormai a parte questi ritornelli che la gente comincia anche a stufarsene e non ci crede più. Però ecco, prima cosa intanto denunciare il patto di stabilità, però perché denunciarlo? Qualcuno potrebbe dire vabbè va denunciato da tutti, ma in particolare ci sono ragioni secondo te, per esempio, che per Roma questo regge ancora di meno. Ecco, c'è forse una telefonata e intanto che la prendiamo. Forse regge ancora di meno perché insomma tanti anni fa in Europa, quando si voleva fare insomma le capitali, renderle all'altezza della situazione, quello che si diceva è che le capitali si pagano, non si inventano, insomma, dal punto di vista dell'efficienza. Sentiamo la telefonata. Sì, abbiamo una voce che in realtà da questa radio è conosciuta, ma che interviene come lavoratore, perché insomma qua oltre a trasmettere lavoriamo anche. Certo. Pronto? Buongiorno, sono un lavoratore ACEA e quindi siamo in un certo senso, come dire, coinvolti anche direttamente nel discorso del Salva Roma. Io però vorrei dire una cosa, tanto per sgombrare non tra noi, ma chi magari è un attimino lontano da tutta questa discussione, sul fatto che teoricamente da questo Salva Roma siano state lasciate fuori le municipalizzate maggiori, ossia la CEA, l'ATAC e l'AMA. Vorrei chiarire questo, che l'ACEA, anche grazie tra virgolette alla gestione Rutelli, già praticamente è privata al 49%, per cui determinati passaggi già sono stati fatti parecchi anni or sono. Per quanto riguarda l'ATAC, la stessa ATAC di per sé ha una sua sezione che è stata privatizzata e che si chiama TPL e che gestisce tutto il parco vetture dell'area periferica, insomma, ecco. Quindi quando sento o leggo soprattutto in giornali così, lontani da noi soprattutto, sembra che la CEA sia ancora, per citare l'azienda dove lavoro, un paradiso di un'azienda. Già il fatto che la chiamano municipalizzata, in realtà è un ex municipalizzata, ma è una società per azioni a, tra virgolette, prevalente capitale pubblico. Poi vorrei anche dire la posizione strumentale che c'è stata quando Alemanno tentò di privatizzarla ulteriormente da parte del PD e soci, già che allora prima si accodarono al referendum per la difesa dell'acqua pubblica, vedendosi un po', come dire, messi in parte anche i margini dai loro elettori, che in parte hanno anche partecipato a quel tipo di esperienza che tuttora va avanti ovviamente, e visti un po' messi nell'obbligo di prendere una posizione, e soprattutto perché c'è stato Alemanno che comandava, quindi il PD fece anche un buon lavoro da questo punto di vista. Passato poi il problema Alemanno, si è creato il problema Renzi, il commissariamento, Marino, che giustamente sembra un personaggio che per 9 mesi è stato un po' così alla finestra, a parte qualche iniziativa rispetto al traffico, eccetera, insomma. E il PD, la fortuna tra virgolette di tutta questa questione è che molto di quel PD che faceva parte del Consiglio Comunale di Roma, nel nome di Niccoli per esempio, e Marroni, si è ritrovato anche al Senato, no? Per cui tutti questi tentativi reiterati dalla parte per esempio della Lanzillotta, che è il braccio politico di Caltagirone. Esatto, io proprio lo stavo per nominare, per esatto, nominarla io, insomma, ma l'hai mai anticipato tu, giustamente. È giusto ricordare che la Lanzillotta, esatto, è stata assessore alle finanze per 5-6 anni proprio al Comune di Roma, insomma, quindi oggi che tuona contro l'inefficienza della capitale, se non si capisce dove stava lei, insomma, eppure c'è stata negli anni 90, insomma, mi sembra fino al 96-97 è stata proprio lei, quindi ecco. Però tanto perché, insomma, noi siamo complessivamente, diciamo pure, una sorta di spirito romano, che siamo in grado di dirci le cose, ma secondo te, no, detto brutalmente, anche per sollecitare un po', stuzzicare chi è all'ascolto, ma tutti sti soldi per Roma Capitale ci stanno o non ci stanno? Al di là del fatto che sicuramente siamo tutti d'accordo che poi sono stati rubati, spesi male, cioè il malgoverno nessuno lo nega, ma come quantità, all'altezza, diciamo, dei criteri moderni di una capitale, di uno Stato che fa parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è stato tutto questo investimento di capitali, secondo te, o no? Ma dato che Roma non fa parte di una realtà, come dire, a sé stante, o meglio, fa parte di un problema di pessima distribuzione del reddito e delle risorse, in questo senso. In questi anni di liberismo sfrenato, chiaramente dove sono andati a colpire, sono andati a colpire lo Stato sociale, insomma, per cui ovviamente non c'è proprio una volontà politica di investire soldi per quanto riguarda un interesse pubblico, ma soltanto delle manovre che sono figlie di una cosiddetta epoca moderna, insomma. Chi poi si è succeduto alla gestione della città in questi anni, a parte la parentesi Alemanno, è sempre stata una... la cosiddetta sinistra, insomma, dai. Ma sì, che pure offensivo, insomma, loro si offenderebbero pure, chiamiamolo centrosinistra, beh, quello che noi ce lo diciamo tra di noi, insomma. Certo. Che avendo poi abbracciato, avendo abbandonato il conflitto, ma soprattutto avendo abbracciato poi il neoliberismo, si è comportato coerentemente di conseguenza. Il problema è chi andava preso e chi... Tanto per dire, faccio un esempio per tornare un attimo alla situazione qui mia aziendale, no? Allora quando ci fu il tentativo riuscito poi di Rutelli, della Lanzillotta, che vorrei anche sottolineare per l'appunto che già da allora probabilmente chissà se già si studiava qualche cosa. Fatto sta che lei rimane, a mio avviso, veramente il braccio politico di Caltagirone, insomma. E se vogliamo far chiudere un po' un attimino il cerchio, ai tempi di, torno un attimo anche ad Alemanno, quando si vociferava di cedere una quota del 20%, si vociferava che chi poteva, diciamo, approfittarne fosse stata la Cassa Depositi e Prestiti, che attualmente, il cui presidente attuale è Franco Bassanini, che è il marito della Lanzillotta, così per caso, insomma. Per questo attimo posso ridere tutti questi circoli un po' più o meno viziosi, ecco. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, per me è semplicemente, tra virgolette, un figlio del liberismo, un figlio di una gestione malata, un figlio di una gestione politicamente malata, ecco. Qui in Acea, per l'appunto, poi il PD con quelle gestioni là, in questo senso, quando ci fu il passaggio dall'azienda speciale a società per azioni, c'è chi disse: ma questo ci permette anche di investire meglio sul mercato, per cui tutti qua si facevano le pippe, soprattutto la triplice sindacale, insomma. Sì, beh, questo è figlio proprio delle privatizzazioni degli anni 90, quando, insomma, è stato smembrato il Servizio Elettrico Nazionale, quindi, insomma, Palegio Bersani, poi certo. E poi Veltroni ci ha messo, diciamo, del suo insomma, no? Baccario a 90, insomma. No, tra l'altro, sulla Lanzillotta e, insomma, anche sulle, come dire, le omissioni colpevoli che riguardano proprio Acea, leggo, insomma, su un articolo di ieri sul Roma Today che lei ha dichiarato, dice: si tratta di vendere solo una parte della società, questo non vuol dire perdere il controllo pubblico dell'Acea, ma avere la quota di controllo misurandosi con i privati. Quindi sostanzialmente dice una falsità, perché se si vende ancora una parte d'Acea è evidente che il pubblico non ha più controllo. Infatti la canzone di Gigi Proietti, Roma te fa coglionare, in questo senso, è stata una azzeccatissima sigla di apertura, insomma. Va bene, grazie per l'intervento, vediamo se ci sono altri in ascolto che vogliono intervenire. Ecco, l'abbiamo perso subito, anche senza finire di salutarlo, ma vi ricordiamo il numero, che è lo 06 49 17 50. E si stava dicendo, prima di questo ultimo intervento, stavamo parlando, appunto, stavamo arrivando alla Lanzillotta. Stavamo arrivando alla Lanzillotta, sì, ma è, diciamo, è abbinata alla Lanzillotta, no? Il compagno che ha telefonato faceva il nome di Caltagirone e sicuramente, diciamo, la storia moderna di Roma è segnata dai palazzinari. Caltagirone era un palazzinaro, è diventato veramente un'impresa molto grossa, però ci sono forse all'orizzonte altri interessi, anche altri poteri che si stanno affacciando in questo periodo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, sei in onda, sì. Grazie, molto gentile. Sentivo il lungo intervento di Giangi prima, e nei giorni precedenti ho sentito altri lunghi interventi su queste vicende collaterali, perché pare che ci sia stata una grande vittoria ultimamente, una legge regionale che garantisce la pubblicità dell'acqua, e stando a quello che dice il compagno che lavora all'Acea, insomma, mi pare è una cosa ridicola. Ricordo che già ci sono state altre leggi regionali che sono state grandi conquiste del movimento. Vi ricordate la legge sul reddito, che fu sanzionata ai tempi in cui c'è stato un assessore al lavoro che si chiamava Alessandra Di Baldi, che aveva una serie di dipendenti che venivano tutti quanti dal movimento, addirittura dai comitati autonomi operai, Ruggero da Colleferro, un altro dal policlinico, poi diede pure da lavorare ad altri che produssero fascicoli sul reddito universale, eccetera eccetera. E però quella cosa è finita lì, zero hits, perché sostanzialmente non era sostenuta da una realtà concreta. Adesso si viene a raccontare quest'altra storia dell'acqua pubblica, quando ovviamente non solo Acea, ma tutto il resto, insomma, sta dentro un criterio, una logica ovviamente di gestione funzionale a quelli che sono gli interessi di un sistema economico che è quello che è, quello che è. Quello che cioè, a me pare strano è che come si fa a dire oggi nel 2014, siamo nel 2014, la scelta ricondurre quelli che furono i movimenti dentro le logiche della separazione fra economia e politica, e quindi fare la scelta per esempio del sindacalismo de base, che risale a metà degli anni Ottanta, che per quanto riguarda l'ambiente che circola intorno alla radio è collocabile intorno agli anni 90, come si fa di oggi? C'è i lavoratori non capiscono niente, stanno abbandonati a se stessi, non sono capaci di reagire ai pericoli incombenti, e perché so capoccioni e so capre. E questo discorso è messa bene dal fatto dall'uomo della strada, non messa bene fatto dal compagno fine interprete e soprattutto responsabile sindacale di uno dei tanti sindacati e basta. Quantomeno ci dovrebbe essere una riflessione sul fatto che cavolo ci sono stati a fare i sindacati di base o conflittuali o altro nei passati 15 anni, 20 anni dentro le varie amministrazioni pubbliche. Capito? Cioè probabilmente c'è stato un deficit di impostazione, di lavoro, perché le cose non è che sono andate sempre in questo modo, sono state fatte proposte diverse. Prima ancora che la compagna che c'hai lì con te arrivasse a Roma, erano state fatte una serie di proposte su un settore, per esempio quello degli assistenti domiciliari, che era lo stesso compagno che intervistava Gianni l'altro giorno al gioco delle parti, in cui si proponeva un percorso conflittuale auto-organizzato sul terreno della una richiesta di internalizzazione delle 95 cooperative che gestiscono l'assistenza, o che gestivano all'epoca, non so adesso quale sia la situazione, l'assistenza domiciliare, per cercare di fare un discorso di internalizzazione. Dopodiché c'è stata una scelta appunto di sindacalizzazione che ha portato alle conseguenze che vediamo oggi, cioè una capacità di mobilizzazione pari a zero. Però permettimi, questo è sicuramente un aspetto che va tenuto in considerazione, che però non credo faccia la totalità del problema. Sicuramente no. Ecco, però quindi fa un problema, cioè se pone la questione è, poniamoci un problema di rilettura delle nostre responsabilità, perché è chiaro che non è che le scelte generali sono state fatte dai sindacati di base, insomma, no? Vengono fatte e decadono sulla testa perché rispondono a tutta una serie di criteri. Però con questo tu interagisci, cioè abbiamo dei movimenti che ci abbiamo in testa. Il problema è questo, ma io credo che oggi, insomma, non è per semplificare il tuo ragionamento, semmai per cercare di dargli un'attualizzazione che non sia soltanto, diciamo così, tra virgolette, polemica, perché la polemica è pure giusta, è anche sale, diciamo, della vita in genere, ma è anche sale, diciamo così, per crescere un po' tutti quanti. E senza volerla superare così, perché mettiamola da parte, no, non è manco quello, però forse certe stagioni, così come iniziano finiscono pure, cioè quando la controparte arriva a chiamarti resti, a metterti definitivamente o quasi, magari la fine ancora non è detto che sia questa assolutamente, però insomma ti fa una chiamata forte e ti dice c'hai poco tempo, ormai le cose sono queste, o fai questo o non si sa, probabilmente c'è una riflessione collettiva che si ripropone, insomma. Poi certo ognuno di noi si porta dietro determinate esperienze, le sue in particolare, fatica, diciamo, a riflettere su questo. Guarda che non è così, il problema appunto si tratta di capire quali sono gli strumenti che utilizzi e difende degli interessi che sono definiti. Ma questo l'ho capito, però è quello che volevo proporti, era anche una riflessione sulle condizioni generali attuali da un punto di vista dell'interesse, diciamo così, capitalistico padronale, dei poteri forti o meno forti che siano su questa città, su come si presenta oggi questa città nell'epoca della modernità avanzata, non so come definirla, per esempio, che ne so, Parigi e altre città sono città metropolitane dove i servizi sono integrati in un certo modo. Io lo pongo come punto interrogativo, anche questo può essere un elemento di riflessione, cioè voi a Marino ci avete l'autobus del comune, ma c'ha senso, visto che ormai è tutto un hinterland? Lo pongo come interrogativo, e così per i rifiuti e così ma per altre cose. L'area metropolitana non ci stanno problemi, a parte il fatto che io in questo momento chiamo da un altro paese e faccio un intervento politico su un territorio ampio, sono 16 comuni, ci stanno 250.000 abitanti. Sì, è proprio per questo che lo dico, insomma. 8 ospedali e 500.000 persone. La questione è che si tratta di capire noi se, guarda, quando uno, tu interloquisci in radio, no? Che famo? Vincenzo e Diego Bas, Giangi e Dell'Usi, i compagni che stavano dentro l'Amate, che so, dell'USB, poi chi altro ha chiamato prima, cioè di che cosa? Cioè che tipo di proposte facciamo ai nostri compagni di lavoro o di vita? E che gli diciamo dentro, dentro questo quadro? Che qualcuno poi mi dice addirittura che guarda, mo tutta una questione di rischieramento dei gruppi industriali, Caltagirone contro questo, per cui tu se tu ottieni dei risultati sul territorio è perché magari sei stato al servizio di qualcun altro. Cose, queste follie qua, oltre alla mancanza totale di cognizione di causa, cioè se parla proprio a voto, all'aria. Esistono, credo che questo sia un elemento di riflessione. Vabbè, però questo mi consentirai, non è solo un ragionamento che si può. È pubblica, mi rispondi. Sì, no, no, volevo dire un'altra cosa, volevo dire una questione anche di metodo. Cioè, noi cerchiamo di sollecitare un dibattito, ovviamente non è che possiamo selezionare chi telefona, allora quello sì e l'altro no. La questione. Ha capito? Cioè, si tratta di cioè ci sono, quello che voglio dirti, ci sono altre sedi aperto alla città, Peppe, ci sono anche altre sedi dove i dibattiti avvengono. Lunedì c'è stata un'assemblea ad Agrobax dove c'erano un certo numero di persone rappresentative, non rappresentative, non ha importanza, e uno va lì e dice la sua, insomma, no, non è che lo fa solo per radio, insomma. Ce ne stanno tante sedi, e la radio anche. E certo, la radio anche, mica si sottrae, anzi, come vedi tu stesso, forse si espone più di altri, ma non è questo, non è un problema, insomma, né di medagliette né di ruoli. Io i ruoli li detesto, spero che anche tu sia di questa opinione, insomma. Sì, ma io ti dico che il fatto che ogni tanto ti chiamo è una speranza per la radio, perché altrimenti la gente della radio si parla fra se stessa, capito? Credo che non sia questa la missione. Ma certo che non è questa, però insomma uno cerca di sollecitare un dibattito con ascoltatori e ascoltatrici, a prescindere dalla loro collocazione, insomma, no? La stessa lingua tua, e poi certo se mi telefoni tu e mi telefona un altro compagno che so, compagni impegnati, sacralizzati, eccetera eccetera, con le loro io che posso fare? Cerco di risponderti, cerco di riportare, no, insomma, queste cose. La redazione, capito? Perché io un po' chiamare radio e sentirmi dire da un altro, guarda, io ti spacco la faccia, capito? È comunicazione al mondo questa, capito? Vabbè, questo capito? Secondo me hai fatto male a dirlo, insomma, perché io capito, sono filo russo, capito, sono per la Pravda. Ma vabbè, ma non c'entra niente, non la prende così. Secondo me comunque questo non c'entra niente, non c'entra assolutamente con quello che cercavamo di fare, insomma, questo non è dibattito, questo è un po' una resa dei conti personale tua, che te devo dire, insomma. No, questi cazzi, come diceva quello, non mi devi proprio dire per niente. Ma manco tu devi dire altre cose, però allora, Peppe, perché queste cose te vedi con chi t'ha dette, non t'ha dette in diretta e tu fai male a dirle in diretta, t'ha dette di persona e guarda, vedi un po' che come la puoi risolvere tu, insomma, che te devo dire. Non c'è proprio problema, guarda, non c'è proprio problema. In ogni caso, appunto, metteremo poi a disposizione il nostro curriculum personale. Va bene, grazie. Prego, ciao. Ciao, ciao. Che belli tempi quando bell'Urione sentivi ancora il suono del pianino, accordi di chitarra e mandolino, e Nina s'affacciava dal barcone. Era un motivo semplice che riscaldava l'anima de Roma nostra piena de bontà. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché? Torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, abbiamo un'altra ascoltatrice, pronto? Beh, niente, a rischio di sembrare troppo semplice, no? Dico, Roma non è solo servizi, acqua, trasporto, sono pure risorse, no? Mi riferisco alla cultura, a tanti beni archeologici che tante volte sono mal gestiti e niente, dove c'è tanto lavoro precario e niente, penso che se solo si attacca e le spese, dove si spende, come si spende, e invece non si parla delle risorse. Questo non so se c'entra o non c'entra, ma mi sembra di sì, no? In un'economia le risorse c'entrano. Sì, ecco. Questo c'entra indubbiamente, insomma, almeno io personalmente sono d'accordo con, cercavamo anche di introdurlo questo argomento quando appunto cerchiamo di non fare solo riferimento ai soliti nomi, Caltagirone, quindi diciamo così la speculazione edilizia oppure i servizi che indubbiamente sono la parte diciamo strutturale del funzionamento di una città, però come dici tu questa città e anche tante altre cose. E la domanda magari che ti potrei fare, te la faccio, insomma, se sei interessata, se sei in grado di rispondere, ma proprio questo grande aspetto culturale a Roma, che non è solo la sua storia ma è anche gli eventi che si costruiscono eccetera, può diventare oggetto di desiderio da parte di poteri economici nuovi che magari si affacciano e pensano a una sua, attraverso la scusa della modernizzazione di, nella gestione di queste cose, viceversa di mirare ad altro e soprattutto mirare a un'ulteriore speculazione? Beh, io sono per la cosa pubblica, no? Non credo che si possa commercializzare con queste cose, ma sì gestirli bene e ricavare risorse per altre cose della città. Quindi tu dici va anche bene che per esempio... Perché anche nel turismo c'è tanta gente che vive di turismo, come può essere un bar o come può essere uno che vende cartoline, insomma, i privati possono entrare comunque nel giro dei guadagni nel turismo, no? Lo so, però certamente i privati, anzi direi che ci stanno proprio, soprattutto, sì, insomma, sì. Ma una mano privata dentro il settore culturale, dalla gestione dei musei ai monumenti a tutti gli eventi culturali che ci possono essere, insomma, consegnarlo, diciamo così, alla gestione privata, secondo te può funzionare meglio oppure, insomma, bisogna starci attenti? Bisogna starci attenti, dovrebbe essere una cosa molto agile e controllata e senza monopolismi, non lo so. Non lo sai, va bene. Grazie di aver chiamato. Ciao. E appunto si ricordava anche come, quali sono poi, insomma, sono, questa città ha, come dire, macro strutture da questo punto di vista, perché oltre ai beni che si ricordavano, cioè, ci sono per esempio 3 atenei universitari che, insomma, anche quelli sono un altro settore in cui girano molti soldi, ci sono aziende ospedaliere molto grandi, molto importanti, insomma sono tanti i settori in cui si può andare a vedere quello che succede, dove si produce ricchezza, dove non si produce e soprattutto dove va a finire questa ricchezza. Eh sì, perché poi appunto anche queste sono strutture pubbliche e dove però i processi di privatizzazione, insomma, sono ben radicati e sempre più, insomma, questo scandalo ultimo che c'è stato del farmaco per cui 2 società sono state, no? Sì, la Novalis, se non mi ricordo, esatto, l'altra. Che arrivava a costare 800-900 euro rispetto a altri farmaci che costavano 10 volte di meno, e danno il senso proprio di questo, cioè chi fa la politica sanitaria in Italia e quindi anche a Roma, insomma, forse Roma più di altri, non lo so, poi non saprei proprio dire se Roma in questo senso è peggio di altri o meno, la fanno sicuramente le case farmaceutiche da un lato, non esclusivamente, però insomma che allora c'è una multinazionale, tanto per traslare il ragionamento, stavamo parlando della cultura, c'è all'orizzonte un interesse nuovo sulla città di Roma per quello che può esprimere proprio dal punto di vista della produzione di ricchezza e dell'accaparramento di ricchezza, anche tutti i suoi aspetti storici, culturali e così via, insomma, che ne so, della valle che sponsorizza il restauro del Colosseo è il primo segnale e chissà quanti ce ne sono dietro, oppure possiamo fare, insomma, alzare le spalle, chi se ne frega, perché Ovviamente i problemi poi che i cittadini, che chi ci vive dentro sta città soffre di più sono quelli che dicevamo prima, quindi di nuovo i servizi, non dimentichiamo la casa, insomma una politica di abitazione. Roma sta in testa alle graduatorie sia per quanto riguarda le tasse sulla casa che per gli affitti, insomma, no? Non c'è una politica degli affitti. E qui magari ritornano anche riflessioni sui movimenti, se in questo periodo dove pure il movimento di lotta per la casa è forte a Roma, se sono state, diciamo, trascurate, non voglio dire ignorate, ma insomma trascurate rispetto a una richiesta di alloggi e che subito il padronato ha tradotto in nuove costruzioni, per cui il problema poi diventa quello della cementificazione, se sono mancate per esempio politiche viceversa che chiedevano degli affitti di un altro tipo, insomma più accessibili, perché insomma qui non si campa, no? Tu lo sai, insomma, no? Sì, qui non si campa davvero, insomma, poi appunto anche soltanto con questo quartiere da cui trasmettiamo, se vogliamo parlare di cosa significa il caro affitti, la speculazione magari su chi è venuto qua a studiare da fuori, perché questo è un quartiere vicino all'università, ma insomma non è l'unico problema. Sappiamo benissimo che gli affitti di Roma arrivano a dei livelli unici in Italia, credo sia la città più cara per il costo delle abitazioni. E fra l'altro, insomma, poi tornando a quello che diceva l'ascoltatrice, se ne è parlato più volte da questi microfoni, si è parlato più volte di mani sulla città, ma quando si parla di questo dobbiamo anche ricordare che siamo davanti o nel mezzo a alcuni processi di ridefinizione urbanistica che interessano tanti milioni di euro e tante zone di questa città, da stazione Tiburtina al Policlinico Umberto I, al progetto Nuovo Campidoglio a Testaccio, insomma Ostiense, non è che si tratta di spiccioli. No, poi, cioè, senza contare appunto anche il lato sportivo, no? Per quello che è cosiddetto sportivo della tifoseria, cioè, che facciamo per gli arrabbiati della domenica? Famo un nuovo stadio, insomma, sembrerebbe anche un po' questo, detto proprio banalmente, quindi un nuovo stadio perché l'Olimpico va bene, che ne so io, insomma, ci stanno pure sollecitando pure le tifoserie, soprattutto quella romanista, no? Che è lo stadio nuovo della Roma, queste cose qui, ma si può pagare un prezzo del genere a ulteriore cemento pur di vedere la gloria della propria squadra e così via, insomma, anche riflessioni, sì, di questo tipo. Credo anche la gloria della propria squadra c'entri veramente poco con questo progetto, perché dietro c'è stato, usavo un termine, insomma, soldi, investimenti, insomma un'operazione è stata fatta a Torino, no? In cui è stato costruito un nuovo enorme stadio nuovo dopo che ce n'erano già due in città, in una città che è molto più piccola di Roma, anche se ha due squadre di calcio, insomma, importanti, e che è diventato un'altra enorme cementificio sostanzialmente, ma non solo, insomma ci sono stati interessi, insomma, quella città ha 14 miliardi di debiti e si parla molto di questioni sportive che le hanno create, sia l'Olimpiadi d'inverno che altro. Sì, beh, qui ci abbiamo avuto l'Olimpiadi del nuoto, no? Che, di cui ancora un altro scandalo, eccetera eccetera, però insomma quindi veramente la materia è enorme, no? Potremmo dire. E è difficile venirne a capo. Certamente la telefonata precedente del compagno che telefonava poneva l'accento su come rispetto a queste problematiche nel tempo ci si è posti, soprattutto dalla parte antagonista, insomma, che o anticapitalista, come si voglia definire. E qui le riflessioni, insomma, anche qua ci stanno tutte, dopodiché ci sono anche fasi nuove, secondo me, che presuppongono ulteriori riflessioni, non solo sacrosante riflessioni sul passato, su come sei stato, eccetera eccetera, però insomma credo che non si esaurisca qui. Non c'era un'altra telefonata? No, è scomparsa. Va bene, mettiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo. Sotto un manto di stelle Roma bella mi pare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare una muta fontana e un balcone. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornaria. Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, un altro ascoltatore, pronto, ci senti? Sì, vi sento e il concetto che mi sta venendo in testa è questo, no? Che dietro le grandi società, nei governi, ci sono i grandi psicologi, no? Che fanno le statistiche come fregare la gente, no? E io in questo momento mi sento un piccione, no? Non so se vi è mai capitato di andare alla villa a mangiarvi un pezzo di pizza, un panino, perché chi lavora in giro, no? E allora tu mangi e c'è il piccione che viene sotto di te e si raccoglie le briciolette, no? Intanto io mi sono mangiato il pezzo di pizza, come si dice a Roma, no? Sì. E il piccione si accontenta delle bricioline e è felice, è contento, no? Quindi gli statistiche fanno le conclusioni analitiche per come fregare la gente, come tenerla buona. Si ancorano al fatto dei romani, no? Che dicevano: per tenere buono il popolo gli devi dare circo e pane, no? Allora finché la gente non si sveglia a capire che le briciole non stanno bene a nessuno, che non ci sta bene questa miseria, che non ci sta bene questa situazione di malessere generale, questa mancanza di cultura, il fatto stesso che si sta tornando a un'ignoranza pazzesca un po' in giro in tutto il mondo, non solo a Roma o in Italia. Questa cosa qui a me mi rende abbastanza sgonfio, mi sento un colabrodo, un colapasta con tutti i buchi che mi colpiscono nel corpo e automaticamente sfiato da tutte le parti, non ho energia, non ho voglia di fare niente, non ho voglia di agire. Prima sentivo il compagno che si era incazzato con Giorgio, no? Cioè quello ci avrà i fatti suoi, come giustamente diceva Giorgio, così. Però a un certo punto a me mi è venuto naturale di pensare: Giorgio, ma chi t'ha papà? No? Però poi apprezzo Giorgio, che è una vita che io sento la sua voce in radio, apprezzo Giorgio che lotta tutti i giorni e c'ha sta forza, sta grinta, i buchi li ripara. Allora, lo fa anche l'altro compagno, su questo stai tranquillo che è così, non è una questione di chi fa più cose, ci manca, io almeno cerco sempre di evitare questo, insomma, poi le polemiche ci stanno tutte, ci mancherebbe, insomma, non... certo, no, ma io non dicevo cose personali, insomma, alla fine, no, tutti sti buchi, no, tutte queste cose ti fanno perdere la pressione delle gomme della macchina, no, come la macchina si buca, stai a terra. Impossibilità. Allora, la cosa essenziale che io ricordo sempre mio padre, che diceva: vai a scuola, impara, cioè, impara a vivere, no? Allora bisogna battere sulle nuove generazioni che stanno sedute, io vedo i miei figli seduti davanti al computer, davanti a Facebook, che fanno? Si isolano dal resto del mondo, non sanno niente di quello che è la povertà, ci abituiamo a queste situazione di malessere, i bambini ai semafori, per dire tante cose, chi più ne ha più ne metta. Quindi stiamo diventando indifferenti e impotenti, che ci rendono così per tenerci buoni. Poi ti danno la possibilità di fare la manifestazioncina del cavolo, no? Che ti sfoga, e poi alla fine siamo sempre col culo per terra a raccogliere le briciole come i piccioni. Ecco, ma allora, prendendo questo tuo sfogo come uno dei punti di partenza, insomma, l'argomento si può avere più di un punto di partenza, che cosa bisognerebbe fare? Cioè, che cosa sconti? Che cosa manca secondo te? Insomma, oltre la volontà che tu denunci non esserci, l'apatia, l'indifferenza, eccetera, eccetera, ma intanto come si scuote questa apatia, questa indifferenza, e quali strumenti? Manca, per esempio, è carente l'organizzazione, che tipo di organizzazione, non lo so, oppure pensi che un cambio di classe dirigente sia sufficiente, non lo so, insomma, per esempio. Allora, ti do due risposte, Giorgio. Allora, la prima, se io fossi in era medievale, no? Dove vigeva la legge delle armi, allora se fossi, ripeto, non vorrei essere frainteso dalle orecchie strane, se fossi in quell'epoca io suggerirei l'azione. Siccome siamo in un'epoca civile, che stiamo vivendo, si suppone che siamo civili, allora io avverto questa carenza, una carenza di dirigenti che non c'è. Noi ci affidiamo a chi? A Renzi? Cioè, per me Renzi, io l'ho sempre rapportato dal primo giorno che ha incominciato a fare le sue azioni, io sai a chi l'ho paragonato? Al Papa Wojtyła e a Gorbaciov, perché lui non è altro che una pedina tipo Papa Wojtyła e Gorbaciov, che hanno fatto le loro azioni per distruggere alcune cose e ci sono riuscite. Allora io oggi come oggi ti rispondo alla domanda e ti dico: questa radio io la conosco da quando è nata, cioè dal 77, cioè avevo 17 anni, ero un ragazzino, 18 anni, e l'ho sentita sempre battere il chiodo sempre sul cambiamento, sul cambiamento, sul cambiamento. Organizziamoci, facciamo. Oggi questa radio conta di un determinato numero di persone abbastanza elevato, io credo, molto più di quello che pensiamo. Allora, quello che io ho proposto altre volte è un'organizzazione politica e sostituire la parte governante. Cioè Grillo dal niente è riuscito a prendere il 25% dal niente. Ma chi era Grillo? Ma chi era Grillo? Uno che intratteneva la gente in piazza, ha sempre fatto politica, ma si è limitato a fare sempre l'intrattenimento in piazza con i suoi spettacoli per motivi di lucro, no? Oggi praticamente lui conta un determinato numero di voti. Perché la radio non si può organizzare e creare un organigramma politico e sostituire sti buffoni ladri che ci stanno sempre, che io me li ricordo da quando avevo 4 anni, che mio padre mi portava al partito e mi presentava i dirigenti del partito. Il compagno mi diceva: ti presento il compagno. Io avevo 4 anni, 5 anni, e sono cresciuto in quella situazione, in quella storia. Mio padre prima di morire ha detto: si sono venduti il partito. E mi ha dato la risposta. E questo, noi siamo in mano di gente che, chi sono quelli del PD, chi sono gli ex democristiani, sono tutti la stessa. Va bene. Noi dobbiamo essere governati da sta gente. Vabbè, no. Ti ringrazio. Ciao, buon lavoro. E ci risentiamo sicuramente. Ciao, grazie. Ciao. E forse qui il problema non è solo che qualcuno si è venduto il partito, qui troppe cose si sono vendute, insomma, sai, dice, finché te vendi il partito, uno potrebbe dire chi se ne frega, insomma, se ne fa pure un altro. Se fosse il problema, forse non è quello, è in gioco, appunto, c'è, almeno oggi, tornando all'argomento, questa... Non le sorti di Roma, perché insomma non esageriamo, non è in questi termini che va posta la faccenda, insomma, è però sicuramente nei termini di come affrontare, di come mettere in campo forze, energie per contrastare certi disegni, sicuramente questo è il problema. E parallelamente o contestualmente a questo c'è pure da capire quali sono i disegni, insomma, che a grandi linee sì, li abbiamo già detti, li immaginiamo, la privatizzazione, l'ulteriore, come dicevi tu, no? Ulteriori mani sulla città, insomma, dove vediamo che questa città veramente offre, come tante altre, per carità, non è solo Roma, Roma in particolare c'ha appunto di essere poi la capitale, di essere più esposta di altre città magari, insomma, e quindi di soffrirne. Una delle domande era proprio questa, insomma, no? Che cercavamo di sollevare, è più una sofferenza o più un beneficio a essere poi, diciamo, esposti in questo modo in una città che così non è che sia determinante, ma per capire anche, diciamo così, gli umori di chi ci ascolta, al di là di quelle che sono le stringenti, le note stringenti che sono fissate appunto nel decreto di Roma Capitale, che così qui ce l'ho sott'occhio, l'articolo 16, no? Dice: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Roma Capitale trasmette al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi, insomma, eccetera, eccetera. E quindi, no? Si dice... queste cose devono essere azioni amministrative volte a applicare le disposizioni finanziarie di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani. Che vuol dire? Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quali, che vuol dire grandi comuni? Quali so, come se fa la media? No? Vabbè. Operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti. Ovvero, qui si apre tutto il discorso della riduzione del personale, del contenimento della spesa del personale, adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Ecco, quando si dice modelli innovativi, le parole, no, che nascondono le cose, significa appunto gestioni diverse da quelle che ci sono state fino ad oggi, procedere ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario, eccetera, eccetera. Insomma, queste sono le tracce. Giustamente l'osservazione qual è? Ma difendere il pubblico e basta non è che è sufficiente, perché abbiamo visto poi il pubblico che risultati dà, e d'altra parte non ci piace nemmeno che tutto vada a finire in mano ai privati. Allora, di fronte a questa situazione, qual è, non dico la risposta, ma insomma un primo punto fermo è che uno difende intanto gli interessi di chi lavora, le condizioni di lavoro, e che sono anche condizioni di vita poi per tanta parte, insomma, no? E quindi il discorso non solo dell'occupazione in quanto tale, ma insomma delle condizioni dei salariati, anche del reddito, insomma, di queste persone che lavorano al comune, nei servizi, nelle società partecipate e così via. Perché capiamo che il discorso dei servizi innovativi nasconde poi una, come si è fatto per esempio, come ha fatto, si parlava di Renzi, come ha fatto esattamente Renzi a Firenze, privatizzando trasporto pubblico, no? Sì, privatizzando ATAF, che era, insomma, ATAF, il servizio pubblico di ATAF non, insomma, era migliorabile, ma sicuramente non era come quello di ATAC, però lì il gioco in realtà era già un po' cominciato prima di Renzi, perché con la costruzione della tranvia il sindaco era Domenici, all'epoca fu messa a bando la gestione poi della tranvia, e il bando fu vinto da una società francese privata, e quindi già era stata scorporata una grossa parte al servizio pubblico. Quando è arrivato Renzi, abbastanza nel silenzio generale, ha sostanzialmente privatizzato tutto, peggiorando di molto le condizioni di chi lavora in quell'azienda e privatizzando anche il servizio, ovviamente. E, appunto, parlare di chi lavora, anche la telefonata che aveva fatto prima l'ascoltatrice, insomma, sì, Roma ha molti beni culturali che potrebbero essere una risorsa. In questi beni culturali ci lavorano molte persone che hanno contratti precarissimi normalmente, estremamente sottopagati, e che sono sempre in cima alla lista di qualunque riorganizzazione, diciamo, di questa città o anche delle altre, insomma. Questo ne va tenuto conto, perché, insomma, si parla di risanare il bilancio di Roma Capitale e si parla sostanzialmente di tagliare i posti di lavoro, per esempio di Zetema, la società per in Roma, housing, sì, eccetera, che di fatto tengono aperti i servizi di queste città, perché insomma, chi lavora a Zetema lavora nelle biblioteche, lavora nei musei, eccetera eccetera, non è che sono in più. Allora, insomma, intanto cominciamo a dire, se uno vuole la difesa, per esempio, della cultura in genere o dei trasporti in genere, non può prescindere dal fatto che questa difesa di questi ambiti, così, di questi grandi settori, poi non comporti anche la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, insomma, no? Non si possono, perché altrimenti, con la scusa, appunto, facciamo il bene dell'Italia, che di tutto e vuol di niente, ma in primo luogo bisogna, appunto, tenere in mente questi aspetti, insomma. C'è un'altra telefonata, vediamo se è un ascoltatore o ascoltatrice che vuole intervenire. Ecco, allora, c'è il tempo di metterlo in onda. Eccoci qui. Eccoci qua, pronto? Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Io volevo dire, il capitale non può stare senza il lavoro, perché... Guarda, dovresti spengere la radio, credo. Vado in un'altra stanza. Allora, il capitale non può stare senza il lavoro, perché non sa lavorare e non può, cioè, non sa lavorare, diciamo. Il lavoro, invece, può stare senza il capitale, perché anche lavorando qualcosa, un bene se lo procura, se coltiva la patata sul balcone, mangia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe dire a questa gente che il lavoro, noi, possiamo stare senza il capitale, ma il capitale senza di noi è morto. E questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa è questa: bisogna fare un'organizzazione, che l'organizzazione è la carenza degli italiani, cioè gli pare l'organizzazione, non si sa che è, che cos'è, non si sa, ecco. L'organizzazione è una cosa che si acquista con l'esperienza, anche se non ci sei tagliato, te lo posso dire io che l'ho sperimentato, si acquista con l'esperienza e con chi te lo insegna sinceramente e lealmente. Quindi serve una unione dei lavoratori per contrastare questi padroni che non sanno fare un cavolo, non lo sanno fare. Quindi qual è la prima mossa? Unirsi tutti quanti. Poi pretendere, quando si va al bar, lo scontrino, perché io le pago le tasse e le devono pagare anche loro. Se Roma non ci avesse più il governo, i ministeri, i portaborse dei gatti dei portaborse, eccetera eccetera eccetera, i bar, i ristoranti e il Vaticano, staremmo una favola. Forse sono stata un po' confusionaria, comunque questo volevo dire. Quindi organizzarci. Ok, d'accordo, grazie. Ciao. E fra l'altro, rispetto alla sovraesposizione di cui parlavi prima di questa città, per esempio oggi sulla cronaca romana di Repubblica.it, la versione online, si parla del 27 aprile, cioè il giorno in cui ci sarà la canonizzazione di due papi. Si aspettano 5 milioni di visitatori, quindi di nuovo Roma messa a una prova piuttosto complessa da questo punto di vista, perché poi, insomma, c'è anche l'altra cosa, la fabbrica, diciamo, di grandi eventi, che non riguarda solo questa città, ma essendo questa città capitale la riguarda particolarmente. E sappiamo che la fabbrica dei grandi eventi, e l'abbiamo imparato, insomma, in questi anni, è un altro modo per mettere le mani sui territori, perché insomma non è un caso che vengano gestiti insieme dalle stesse strutture che gestiscono le grandi catastrofi, insomma si gestisce i grandi raduni di folla così come si gestiscono le alluvioni o i terremoti, e questa città è una fabbrica appunto dei grandi eventi, e è un'altra, però un altro modo, come dire, che non porta soldi a questa città ma li porta via evidentemente. Eh beh, che questo, o perlomeno li porta via nel senso che vanno in tasche ben, sì, ben precise, cioè, non è detto che vanno da un'altra parte, magari sì, rimangono qui, ma va bene. E io direi che oggi siamo in chiusura, direi che la chiudiamo qui, questo tentativo di presa in diretta degli umori degli ascoltatori e ascoltatrici su questa problematica del Salvaroma, che insomma non vogliamo enfatizzarlo più di tanto, però perché rientra poi nel quadro generale, insomma qui il patto di stabilità non riguarda solo Roma, bisogna sempre farlo presente a tutti e a tutti, cerchiamo sempre di non essere una radio localistica che parla solo, anzi fra l'altro forse trascuriamo i problemi di Roma rispetto ad altri, non lo so insomma, però le altre città hanno l'acqua alla gola, non so se quanto Roma, ma parecchio insomma, non sì, è un... questo non è che ci fa contenti, no, nel senso che è un problema esteso insomma, sì, non è un problema locale, sì. Ecco, però insomma cerchiamo di dare una continuità a questo. Certo è che parlare di questo, parlare e uno si aspetta anche che poi venga prodotto qualcosa insomma dal punto di vista concreto e materiale, e su questo non possiamo far altro che cercare di sollecitare anche le forze politiche di movimento eccetera che operano nella città, nel territorio di Roma, perché questo tema, questo problema che oggi si presenta sicuramente in forme più pesanti, più stringenti, e sia preso di petto, insomma sia affrontato, poi gli strumenti, i modi eccetera eccetera certamente sono tutti da approntare, insomma, no? Da trovare una sintesi, trovare se non quella finale perlomeno insomma dei punti saldi su cui far ripartire una opposizione che sia all'altezza di questo nome, insomma. Io direi rimettiamo la sigla dell'inizio, così sì, la rimettiamo, anche perché così è simpatica quella, sì, quelle che strofe là, sì, sono simpatiche. Sono le 12:09, tra poco andrà in onda Miss Pavlicenko, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa, alle 13 il GR e poi Visionari come ogni giovedì. Intanto vi facciamo appunto riascoltare la sigla. Si sono palesati, eh. Nuie da retta Roma, che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi dedichino che un morto si è ammazzato, e allora è segno certo che l'hanno assassinato. Fai non mi rispondi, mi canti uno stornello,